Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Si parla molto di aggredire le infinite involuzioni burocratiche che da sempre, insomma, soffocano il nostro paese. Finalmente si parla anche di un PIN, un'identità digitale unica per tutte le interazioni con la pubblica amministrazione. E sarebbe pure l'ora. Ebbene, una tipica attività amministrativa che incontriamo periodicamente è quella della firma dei documenti, che appunto si vorrebbe digitalizzare con tutti però i relativi problemi di sicurezza. Ecco perché questa sera vi parliamo di una procedura di firma digitale innovativa per tablet, in grado di dare una validazione addirittura maggiore di quella di una tradizionale firma su carta. Per parlarcene, Federico Pedrocchi ha incontrato Marcello Rossi di Namirial, la società informatica di Ancona che ha sviluppato l'app. Sentiamo. Allora, mettiamoci nella situazione tipica, che è per esempio l'apertura di un conto corrente in una banca. Sappiamo tutti che bisogna fare una marea di firme, riempire un sacco di carta. La vostra applicazione interviene esattamente su un'operazione come questa e ce ne sono mille altre. In che modo? Dunque, sostanzialmente sostituendosi alla carta. Cioè, laddove è previsto che io firmi un modulo cartaceo, quello che facciamo noi è fornire un'applicazione che gira su un tablet, quindi il tablet fa le veci della carta e l'applicazione fa le veci dell'inchiostro. Cattura una firma, quindi grafometrica, e inserisce questo dato all'interno del PDF. Quindi genera un documento digitale che in tutto e per tutto può sostituire la carta. Ecco, io adesso sto provando questa cosa e sto facendo la mia firma appunto su un tablet. Naturalmente qui c'è un problema di controllo, di verifica della mia firma, e quello che scopriamo è che questo sistema riesce anche a registrare, come possiamo dire, quando non tocchiamo la carta. Esatto, e questi dispositivi hanno uno strato che permette di rilevare anche il cosiddetto tratto in aria, cioè quei momenti di passaggio tra un tratto scritto e l'altro che sulla carta non possiamo vedere, ma qui riusciamo a identificare, che rendono particolarmente difficile falsificare una firma. Quindi è la non firma che garantisce la firma stessa. Va bene, a questo punto noi abbiamo un documento digitale con una firma che è certificabile. Sostanzialmente il legislatore prevede un processo al fine di dare a questo tipo di firma un valore equipollente a quello del cartaceo. Questo processo si compone di alcuni adempimenti di natura giuridica, che sono posti a tutela del soggetto debole, quindi il sottoscrittore, altri di natura tecnologica che servono a garantire la sicurezza del documento, la sua integrità, la sua immodificabilità. Adempiuti tutti questi oneri, il risultato è un documento che è equipollente al cartaceo e quindi integra anche il requisito della forma scritta, quindi anche un contratto bancario che per la legge bancaria deve essere scritto a pena di nullità può essere invece sottoscritto in modo digitale con questa tipologia di firma che si chiama firma elettronica avanzata e in tutto e per tutto essere equivalente al cartaceo. Ma dal punto di vista della legislazione come siamo messi? Cioè, questa cosa è già riconosciuta, la state proponendo perché venga riconosciuta? Fortunatamente è già riconosciuta, innanzitutto ci poniamo all'interno comunque di uno schema legislativo che nasce nel 99 con una direttiva europea, recepita in Italia con il CAD, entrato in vigore il 1 gennaio 2006, che poi ha demandato delle regole tecniche che sono state emanate lo scorso anno e sono entrate in vigore ai primi giorni di giugno del 2013, che quindi hanno finalmente definito questa tipologia di firma e ne hanno definito le caratteristiche perché abbia pieno valore legale. Saranno poi di prossima emanazione delle linee guida che aiuteranno noi operatori a fornire una soluzione che sia ancora più aderente a quello che è il dettato legislativo. Però diciamocelo, in questo grande processo che deve riuscire a rendere digitale un sacco di carte e quindi a eliminare attività burocratiche e micidiali, purtroppo siamo ancora lontani al momento, nessuno fa firme di questo genere in giro per le nostre città per il momento, è proprio una percentuale bassissima. Ancora sì, siamo ovviamente agli inizi, è chiaro che l'attrattiva di un ritorno sull'investimento molto elevato in tempi brevi eliminando la gestione del cartaceo è molto alta per tutti, però è una novità, come quando siamo passati dalla pietra alla carta, ovviamente c'è stata un po' di resistenza perché la carta si rovinava, però per firmare qualcosa sulla pietra dovevo essere io che andavo nella caverna del vicino, con la carta invece mi potevo spostare, per cui credo che col tempo po' vedendolo diffondere, magari appunto anche in esercizi commerciali che tutti frequentiamo abitualmente, come può essere una filiale bancaria, ci abitueremo all'idea che possiamo firmare su una superficie diversa dalla carta. Grazie a Marcello Rossi e a Federico Pedrocchi, appuntamento a domani.